dell'umanità che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Che dato tempo al tempo, trovi tempo per scappare via, perché la gente è stanca.